Innanzitutto io volevo dire che il professor Serafini è stato troppo professore universitario e non se l'è sentita di scrivere il titolo come va scritto, che ha scritto niente, N-I-N-E, invece niente si scrive niente con la G. Quindi il titolo corretto è questo qua, con poco se campa, con niente se more, che mi è stato raccontato da un mio amico come un vecchio proverbio che girava a San Lorenzo, e in cui le persone dicevano appunto: sta attento a come ti muovi, perché con poco se campa e con niente se more. E va bene, io provo, l'altra volta abbiamo provato a parlare della relazione fra cibo, reddito e disponibilità del cibo da un punto di vista spaziale, no? E cioè del tema e del problema a cui si riferiva adesso Mauro, la disponibilità di cibo fresco e di qualità in termini spaziali, in termini di quanto stai geograficamente vicino al cibo che ti fa godere e non ti fa morire, come diceva Mauro. E oggi invece vorrei provare a dire un paio di cose sulla relazione che c'è fra il reddito delle persone, insomma quanti quattrini entrano in una famiglia, e quale cibo e quanto cibo ti puoi comprare sostanzialmente, va bene? Ho visto, innanzitutto ho un po' tradito, e infatti qua l'ho cancellato, è stata una cosa veramente che da un punto di vista scientifico è proprio scorretta, il titolo che mi era stato assegnato era come e perché cambiava negli ultimi 50 anni, io i dati degli ultimi 50 anni non l'ho trovati, e per cui ho cancellato in modo proprio brutale 50 anni e ho messo negli ultimi anni, quindi accontentatevi di dati non recentissimi, non pulitissimi e non esattamente quelli che vi aspettavate. Io comincio sempre da qua, da questa vignetta fantastica di Altan che dice: uno nasce e poi muore e il resto sono chiacchiere. E fra gli economisti, e qui chiamo anche la professoressa Pignalosa, che è una nostra brillantissima collega dell'università, fra gli economisti c'è disaccordo anche su cosa la teoria economica debba essere, no? Ce ne abbiamo 300.000 definizioni diverse, però poi alla fine quando vai a stringere una cosa su cui più o meno tutti si può essere d'accordo è sul fatto che noi altri ci si occupa di come le risorse materiali e i bisogni materiali delle persone in una società fatta di tanta gente con preferenze diverse, bisogni diversi, richieste diverse, desideri diversi, si mettono insieme in qualche modo più o meno compatibile per fare una cosa, e cioè per non morire, ovvero per procurarsi le calorie che servono per non morire, punto e basta, va bene? Poi ce la raffiniamo come ci pare, ma alla fine gli economisti di questo si occupano, di come in un posto con tanta gente ognuno tira da una parte diversa, come si fa a mettere insieme, a organizzare, a produrre, consumare, distribuire le risorse materiali, il cibo in primis, che servono per non andarsene all'altro mondo, va bene? Quindi comincio da qua, da questo fatto qui. Ora, adesso per me è relativamente facile cavarmela, nel senso che se uno comincia a riflettere sulla relazione che c'è fra io arronzo molto, e la professoressa Pignalosa mi mette in gran soggezione, quindi lo dico dall'inizio, arronzo molto sulle definizioni, se uno si mette a riflettere su, non parlo di PIL, non parlo di reddito disponibile, ma proprio di quanti soldi c'ha in saccoccia, va bene, punto e basta. Se uno si mette a riflettere su la relazione che c'è fra quanti soldi c'ha in saccoccia e che tipo di cibo ti puoi comprare, quanto ne puoi comprare, uno se la può cavare in realtà molto velocemente. Se la può cavare molto velocemente, nel senso che se uno guarda questo grafico qua, che rappresenta come sono andate le cose nel nostro paese dall'unità fino al 2011, quindi 150 anni. Uno, caspita, questo grafico non ha bisogno di grandi commenti, no? Vede che la storia del nostro paese dall'unità e per i 150 anni che sono seguiti è stata, dal punto di vista del PIL totale e del PIL pro capite, una storia di grande successo. cominciamo nel 61 là sotto, arriviamo lassù in cima, quindi il PIL pro capite, il PIL totale crescono, poi alla fine c'è quel pezzettino brutto che c'è quello che ci è stato dato a noi di vivere in sorte, ma più o meno lì alla fine degli anni 80 succede un fatto clamoroso, e succede in particolare il fatto che superiamo l'Inghilterra. Nell'84 il PIL pro capite italiano supera quello inglese, che se a fine 800, prima del 900, Giolitti avesse detto a Gladstone vi supereremo, quello si sarebbe messo a ridere come un pazzo, no? Eravamo un paese agricolo sottosviluppato, poverissimo, quindi la storia del nostro paese negli ultimi 50 anni è stata una storia di indubbio successo, primo fatto. Secondo fatto, questo qua è le calorie per abitanti al giorno, anche questo non chiede grandi commenti, no? L'unico fatto lì degno di nota è l'intervallo della guerra, in cui ovviamente, no, le calorie disponibili crollano, le due ce l'abbiamo con l'alcol e senza alcol, di fatto l'alcol non porta, risulta un po' difficile dirlo dopo il pranzo di oggi, ma l'alcol non porta grossi nutrienti al nostro corpo, ma tanto zucchero, che l'alcol alla fine è uno zucchero, per cui vedete che divergono. Lì di interessante c'è da notare solamente quel picco negativo, no, nell'arco della guerra, ma partiamo molto bene, no? Se pensate, le 2200 calorie che servono per non crepare, nel 1861 partiamo già ad un buon punto, e cresciamo, poi c'è il picco della guerra e arriviamo a quelle 3.500 spicci, che sono pure troppe, pensate anche a quello che ha detto adesso Mauro, no? Che sono calorie che in gran parte sono calorie buttate via, perché sono assunte ma non usate, non consumate, quindi le cose che ha detto Mauro. Quindi in qualche modo uno se la potrebbe cavare facilmente dicendo: vuoi sapere la relazione fra il reddito e il cibo? Ci è andata bene, ci è andata di lusso, il reddito è aumentato, il PIL pro capite è aumentato, le calorie disponibili pure, punto e basta. Ora, se vi infatti mettiamo insieme le due cose, qua vedete che in questo diagramma abbiamo sull'asse verticale le calorie per persona giornaliere e sull'asse orizzontale invece abbiamo il reddito pro capite. E vedete che tutti quei puntini là, ognuno di quei puntini è una nazione. L'Italia è rappresentata non dai tondini ma dai quadratini blu. E poi vedete che c'è quella curva è una stima più o meno di come vanno le cose. Allora, qua ci stanno due cose interessanti da notare. La prima, che noi abbiamo quei due anni, il 51 e il 61, non chiedetemi perché, che stiamo sotto a quella curva. Poi vediamo un'altra cosa, che quella curva cresce. Però poi ne vediamo pure una terza interessante, che quella curva cresce, ma cresce sempre meno, ovvero, come vedete, quella curva là è molto ripida all'inizio ma poi tende a diventare piatta, ovvero quella curva che ci dice che le calorie giornaliere per persona aumentano all'aumentare del reddito ma aumentano sempre meno, come a noi altri ci piace dire, è marginalmente decrescente. E questo fatto comincia ad essere un po' interessante, no? Perché quella cosa ci dice: guarda, più ricco sei e più calorie disponibili c'hai, ma a un certo punto più ricco diventi e più l'aumento di calorie diventa più piccolo, aumentano ma sempre meno. E questo fatto è in realtà molto interessante, perché c'è una, chiamiamola, non è proprio una legge, è una regolarità empirica molto forte però, che si chiama legge di Engel, che dice questa cosa, che se tu vai a guardare i quattrini che la gente c'ha in saccoccia e guardi quanto il posto in cui vivono è un posto in cui c'è tanto benessere, tanta ricchezza, vai a guardare l'andamento del reddito delle persone, vedi che più sei ricco e più diminuisce, questo è interessantissimo, più diminuisce la proporzione di soldi, di reddito che tu usi per la spesa alimentare. Cioè più sei ricco e più la percentuale dei soldi che c'hai in saccoccia che destini, giusto? Che vai a destinare per levarsi d'impiccio alla spesa alimentare diventa piccola. piccola. Ovvero, detto in altri termini, i poveri spendono un sacco di soldi per mangiare, i ricchi ne spendono un po' di meno in proporzione. Adesso la professoressa Pignalosa mi potrebbe chiamare a parlare di elasticità della domanda, ma non lo faremo. Comunque più o meno sta legge dice questo, ovvero nasci in un paese molto povero, una percentuale molto alta del tuo reddito se ne va per mangiare. Nasci in un paese molto ricco, una percentuale molto piccola del tuo reddito se ne va per mangiare. Allora, rispetto a questo, uno che cosa può dire? Beh, la prima ipotesi è che i prezzi del cibo siano diminuiti. Vero o falso? Vero, perché sappiamo che nell'ultimo secolo in realtà la produttività dell'agricoltura è cresciuta in modo incredibile, no? E i prezzi del cibo di fatto sono diminuiti. Questa potrebbe essere la prima cosa. Oppure possono essere aumentati i redditi. Questa è la seconda ipotesi. Ora, e in un certo senso potremmo cavarcela così, però è più complicato di così in realtà. E uno dei primi fattori che uno deve prendere in considerazione è questo qua, ovvero per esempio è anche vero che la struttura demografica del nostro paese dall'unità a oggi è cambiata in questa maniera qua. Allora, se guardate di sopra, quello è 1861, voi vedete lì c'è in grigio le femmine, uso femmine come si usa in statistica, non nel senso sottilmente dispregiativo, femmine e maschi di Homo sapiens. In grigio le femmine e in celeste i maschi. Avete sull'asse verticale i gruppi sul totale della percentuale della popolazione divisi per età. Lì vediamo che ci sta una piramide in cui c'è una marea di giovani e quella è nettamente una piramide, giusto? Cioè più si alza l'età e più piccola è la percentuale di popolazione di quella età sul totale. Cioè quella figura che vedete in alto racconta di un posto in cui c'è un alto indice di natalità, un sacco di giovani, dell'età mia, questi qua, noi altri fra i 50 e i 54, siamo un pochetti, ma insomma non così tanti, perché insomma prima si salutava molto presto, molto prima rispetto ad adesso. E invece se guardate sotto, insomma è estremamente diverso, perché se guardiamo il diagramma di sotto vediamo che questo racconta di un posto in cui il tasso di natalità è molto basso, in cui c'è una marea di gente fra i 40 e i 65 eccetera eccetera, e ci stanno tanti vecchi. Allora, rispetto a quella cosa che abbiamo visto qua, la legge di Engel e il fatto che le calorie disponibili aumentano col reddito disponibile eccetera eccetera, però caspita, è anche vero che un popolo di vecchi mangia meno ed ha bisogno di meno calorie di quanto non sia vero per un popolo di giovani, ovvero i vecchi consumano meno calorie di quante ne consumino i giovani. Però è vero anche un altro fatto, e l'altro fatto che è vero è questo qua. Questo è un dato preso da un libro di, non so se l'avete incrociato nei vostri studi o nelle vostre letture, ma questo qui, Massimo Livi Bacci, è uno dei più grandi intellettuali italiani degli ultimi 50 anni, uno che ha fatto libri di numeri e nient'altro che numeri, ma è un gigante. Allora, in questa qui, Livi Bacci che cosa ha fatto? Ha preso la popolazione italiana e l'ha considerata non solo per età, ma anche per occupazioni. Ovvero noi altri nel 1861 che tipo di posto eravamo? Eravamo un posto che campava d'agricoltura, no? Un'economia un po' industriale, ma che ancora non aveva conosciuto veramente l'industrializzazione, era ancora un'economia quasi malthusiana, ovvero era un posto in cui che serviva? Servivano le braccia e non le capocce, per cui di calorie ne servono tante. E Massimo Livi Bacci che cosa ha fatto? In un intervallo, come vedete, molto lungo di tempo, è andato a guardare la composizione della popolazione non solo per età, ma anche per occupazione. Ovvero ha visto che nel 1861 c'erano un sacco di braccianti e pochi economisti e pochi flautisti. Mentre invece, andando avanti col tempo, i braccianti, i boscaioli e i minatori sono sempre di meno e sono sempre di più quelli che compiono e che fanno lavori non manuali e che quindi richiedono un minor consumo di calorie, servono più le teste di quanto non servano le braccia. Allora, qui in questo grafico vedete la richiesta di calorie, il fabbisogno di calorie della popolazione italiana fra il 1861 e il 2011. Quindi qua le cose si complicano un bel po', no? Perché uno da una parte c'ha il reddito italiano dall'unità oggi cresce in maniera fantastica. Poi c'hai la disponibilità di calorie, anche quella si mangia sempre di più e possibilmente anche sempre meglio. E sarebbe finita la storia, però poi comincia a ragionare sul perché questo è successo, perché diminuisce il prezzo dei cibi, perché aumenta il reddito, perché la gente diventa sempre più vecchia, oppure perché la gente diventa sempre più giovane, oppure perché facciamo sempre più gli economisti all'università e sempre meno gli spaccapietre. Quindi le cose si complicano veramente di brutto. E questa cosa ci spiega questa inquietudine, questa domanda. Allora uno comincia a ragionare un po' e lascia perdere tanto la composizione della popolazione italiana da un punto di vista demografico, lascia perdere l'andamento del reddito e va a dare una guardata ai salari. Cioè dice, come è andata qua la disponibilità di calorie per le persone? Se vado a guardare quanti soldi le persone hanno in tasca, quanto guadagnano. Allora qua vedete questa cosa in cui in blu abbiamo le retribuzioni su base annuale e in giallo quelle lì su base settimanale. E fra un attimo provo a spiegare, a suggerire quanto la differenza sia importante. Allora, là vedete che c'è un primo tratto. Allora, innanzitutto vedete che fino più o meno, scusatemi le spalle, più o meno fino al 98 giallo e blu si rincorrono e quasi coincidono. Ovvero l'andamento medio dei salari annuali e di quelli settimanali più o meno si sovrappongono. Dopo il 98 invece la tendenza decrescente delle retribuzioni settimanali registra, vedete, delle oscillazioni meno ampie. E questo significa che la riduzione delle retribuzioni annuali, cioè dei quattrini che entrano in tasca alle persone su base annua, è legata ad un numero di settimane lavorate, che è a una diminuzione del numero di settimane lavorate, che è legata a che cosa? All'aumento dei contratti a tempo determinato. Va bene? Ora, infatti, vedete che all'inizio quelle due curve seguono lo stesso andamento, sono quasi una sovrapposta all'altra, poi lì si dissociano, lì vedete anche più o meno tre grandi periodi, no? I salari che aumentano fino più o meno agli anni 90, poi c'è la grande crisi del 92, poi c'è la crisi dei debiti sovrani e poi le due cose si dissociano in modo molto visibile. Infatti, che cosa è accaduto? Che dal 98 fino al 2014 la quota di lavoratori a tempo determinato passa dal 12.1 al 21.7%. Allora, questa cosa comincia più o meno negli anni, più o meno negli anni 90, molto più o meno, e trova il suo culmine con un presidente del Consiglio il cui nome non intendo ripetere in questa sede, che passa una famosa legge a cui dà un nome in inglese, in cui sostanzialmente si sostiene l'idea che per aumentare la domanda di lavoro bisogna ridurre il costo del lavoro aumentandone la flessibilità, con un ragionamento proprio da bambino di terza elementare, più o meno di terza elementare. Quindi succede questa cosa, tant'è vero che se andiamo a guardare anche il numero delle settimane lavorate, lì abbiamo in blu i valori medi ed in giallo abbiamo la deviazione standard. La deviazione standard che roba è? È una stima di quando c'hai un campione su cui guardi i valori che una variabile può assumere. La deviazione standard misura quanto essa sia uniforme oppure diversa. È detta, non è scorretto come l'ho detto, è detta molto arronzata, però non è scorretta come l'ho detto. Vedete che quelle due curve che ci abbiamo lì, vi ricordo che la blu misura il numero di settimane lavorate, invece la gialla misura un'altra roba, ovvero misura un fattore di diseguaglianza fra i lavoratori che aumenta, che rappresenta l'aumento di una sperequazione dei periodi lavorati. Ovvero, che vuol dire? Che c'è, guardate la gialla, vedete che alla fine aumenta? Quello lì rappresenta il fatto che c'è un numero sempre più grande di lavoratori che non riesce a percepire reddito per l'anno intero. Ovvero aumenta il numero delle persone che lavorano per un tot numero di settimane, poi no, poi sì, poi no, eccetera, eccetera. Ok? Questo qua rappresenta questo fatto. Quindi questa cosa qua, queste due slide che abbiamo visto adesso, ci dicono, questa qui ci dice, guarda che i salari vanno malamente, e vanno malamente soprattutto, anche perché succede questo fatto che aumenta la percentuale sulla forza, della forza lavoro che lavora per periodi di tempo intermittenti, diminuisce il numero delle settimane lavorate. Poi qui so che questa qui mi dice che aumenta il numero di persone che non lavorano per tutto l'anno. E la cosa non finisce qua, perché c'è un altro dato importante, che è questo qua, che mi dice che le cose non vanno per tutti nello stesso modo, ovvero che la diminuzione dei salari percepiti, abbiamo visto che i salari tendono a diminuire in media, ma non per tutti nello stesso modo, tant'è vero che se diamo una guardata qui a queste curve, vedete che fino al 92, queste sono retribuzioni reali, più o meno lì ci abbiamo percentili, i ricchissimi e i poverissimi, mettiamola così, va bene? Quelli che prendono salari molto alti, quelli che prendono salari molto bassi. Più o meno fino al 92 le retribuzioni reali crescono per tutti quanti. Dopodiché che cosa succede? Quelli in alto sono i ricchi, quelli in basso sono i poveri. Vedete che per i ricchi, cioè le prime 1, 2, 3, 4 curve che vedete là sopra, più o meno per quelli che ricevono salari più alti le cose non vanno malissimo, diminuiscono, però rimangono in livello, rimangono tutti parecchio in alto, mentre le cose vanno molto male, ma non per tutti, vanno molto male per quelli che percepiscono salari più bassi. Vedete che lì c'è una caduta della coda bassa della distribuzione, in particolare del decimo e del 25esimo percentile rispetto al valore del 1985, da cui questa cosa comincia. Le retribuzioni reali dei salari più bassi diminuiscono e si riducono di 35 e di 20 punti percentuali. Quindi i redditi diminuiscono, aumenta la frazione di gente che non lavora per tutto l'anno, perché aumentano i contratti a tempo determinato, eccetera, eccetera. Collega di Tor Vergata che sta facendo un lavoro fantastico sugli scaffalisti dei Carrefour aperti 24 ore su 24, la durata media dei contratti di lavoro di questi nostri fratelli è di 3 giorni e non di più, perché poi scatta l'apprendistato. Ok, quindi le cose stanno messe in questo modo. Aumenta il reddito per tutti? Sì. Aumentano le carovie? Sì. Diminuisce la percentuale di quattrini che c'hai in tasca che devi spendere per mangiare, diminuisce pure quella, come dice la legge di Engel, però se vai a guardare i salari che gli succede? Nel paese nostro diminuiscono, aumentano quelli che non lavorano per tutto l'anno e in più i salari diminuiscono per quelli che guadagnano di meno, ma non per quelli che guadagnano di più. Bene. Ora, se provo a mettere insieme questa roba e vado a guardare la spesa alimentare, fra parentesi, difficile farlo perché i dati che l'Istat ci mette a disposizione sono messi a disposizione in un modo scandaloso, per cui ci sono le spese per consumi non distinte fra durevoli, non durevoli, alimentari e non alimentari, quindi è un bell'incubo farlo. Ora, Se vado a guardare come va la spesa alimentare e comincio dalla spesa per consumi, vedo che le famiglie residenti in Italia più o meno sono mediamente formate da 2,4 persone e che spendono 2.488 euro al mese per i consumi. Punto 2. Nel nord si spende più che nel centro. Questa è una roba legata con una cosa che gli economisti chiamano indice dei prezzi da un punto di vista spaziale, perché non ci interessa un granché. Ma comunque vedete che la spesa per consumi al nord è relativamente più alta di quanto non sia al centro e di quanto non sia al sud. E nel mezzogiorno è significativamente più bassa, perché passiamo da 2.843 al nord a 1.898 al sud. Quindi ovviamente qua in mezzo c'è l'inflazione, è tutto sporco. Come si spende? Questo è molto interessante, perché il dato è che le famiglie italiane, composte come dicevamo prima, per i generi alimentari spendono 477 euro al mese, che vuol dire il 19,2% della spesa totale, cioè il 19,2% del budget delle famiglie è destinato a mangiare. Però qui c'è una bella conferma della legge di Engel. Infatti, se vado a guardare, quello lì è il dato medio. Ma occhio, perché se vado a guardare la Campania, se vado a guardare il sud in generale, vedo che la spesa alimentare è molto più alta. Allora, la legge di Engel che abbiamo visto prima diceva che la porzione di reddito che tu destini, o come aveva detto Daria prima ma non me lo ricordo più, alla spesa alimentare è tanto più piccola quanto più sei ricco. E questa è una bella conferma, no? Nel senso che ci fa vedere che al sud la proporzione di reddito destinata alla spesa alimentare è più alta che al nord. E la Campania raggiunge il picco, perché passa dai 477 euro medi italiani ai 558 euro. E questo la dice lunga. Inoltre, qua abbiamo come è composta la spesa delle famiglie, e troviamo i dati che vedevamo prima, va bene? Questi non ci interessano, guardiamo alimentari e bevande fra nord, centro, mezzogiorno e dato medio. E lì vedete un altro fatto interessante, che alimentari e bevande, prima riga, il nord 473, il mezzogiorno 485, ma se guardate la seconda riga, ovvero i non alimentari, vedete che la relazione si inverte: i non alimentari al nord è 2370 e i non alimentari al sud è 1409. Interessante poi andare a guardare per quali tipi di cibi si spendano quattrini. Allora, i 477 euro, la quota principale, e questo fa scopa benissimo, no? Con quello che diceva prima Mauro, la quota principale, il 23,7%, va in carne. Dopodiché patate, frutta e ortaggi, 85 euro mensili, 80 per pane e cereali, la spesa più contenuta è quella per oli e grassi, eccetera eccetera, bevande e cose ci interessano di meno. Questo qua è sintetizzato in una tabella che salterò, perché dice le stesse cose che ho detto adesso. Vedete che la voce principale è la carne. Fra parentesi, tutti quanti sappiamo che la zootecnia è la principale fonte di impatto ambientale, se guardiamo la produzione, distribuzione, consumo e smaltimento dei rifiuti del cibo, perché sappiamo che di quel 25% di gas serra che sono prodotti dalla produzione del cibo, il grosso viene dalla zootecnia. Quindi quella lì è brutta forte. Questa qua è dei dati più interessanti che abbiamo trovato. Allora, viene fuori che la maggior parte delle famiglie compra il proprio cibo in supermercati e ipermercati, in particolare per quanto riguarda la pasta e la carne. Il 6,4 gli hard discount, in special modo per la pasta, poca roba nei mercati, e invece tengono fortissimo i forni, il pane. Ma va bene, questa è un sommario dei dati a cui mi riferivo adesso, ma interessante è questo fatto qua, come è mutata la spesa alimentare fra il 2022 e il 2023. Ora, chi ha studiato, chi conosce un po' la storia economica, sa che la spesa alimentare, cioè i soldi che spendiamo per il cibo, subisce una contrazione, ma proprio nei momenti quelli bestiali, le guerre, le cose proprio devastanti, perché ovviamente quando c'è da risparmiare comincia a risparmiare sui vestiti, sulle scarpe, sulle app del telefono, e il cibo è l'ultima cosa su cui uno inizia un po' a risparmiare. Ora, rispetto a un anno fa, questo è 22 su 23, il 30.4% delle famiglie ha ridotto quantità e qualità dei prodotti alimentari acquistati, mentre il 6.5% dichiara, questa è un'indagine Istat, di aver diminuito sia la quantità che la qualità. Allora, questi qua sono i numeri. Io il punto su cui volevo mettere l'accento in modo più forte è l'andamento dei salari, cioè come vanno i salari in Italia. E una cosa sola volevo aggiungere: come sono andati i salari in Italia, più o meno in modo non assolutamente preciso, ma nemmeno scorretto, lo abbiamo visto in quelle slide che ho fatto vedere. Però c'è un altro fatto, altri due fatti anzi. Il primo fatto è che i salari sono diminuiti, ma non è diminuita la produttività, ovvero salari e produttività, che dovrebbero andare insieme, non vanno più insieme da un bel po' di tempo. La produttività aumenta, ma non aumentano i salari. La seconda cosa è che negli ultimi anni, e non sono pochi anni, succede che la quota della ricchezza, sto parlando molto male, però per essere diretti, la quota del valore, della ricchezza che produciamo e che è destinata al lavoro diventa sempre più piccola. E uno si aspetterebbe che io adesso dicessi diventa più grande quella dei profitti, e non è vero manco questo, perché la quota che diventa più grande è quella delle rendite. Ovvero, se a mio papà gli avessero detto, quando lui aveva 20 anni nel 1956, intorno al boom, e gli avessero chiesto che vuoi fare per diventare ricco, mio papà probabilmente, sicuramente avrebbe risposto: studio, mi metto a lavorare come un pazzo e aumento il mio reddito e divento ricco, studiando e lavorando. Se questa cosa invece, questa stessa domanda, che vuoi fare per diventare ricco, adesso la ponessimo a mio figlio di 17 anni, la risposta giusta sarebbe una cosa tipo i romanzi delle sorelle Bronte: mi cerco una ricca da sposare, mi sposo una ricca, mi cerco una bella rendita. Perché le rendite, cioè una roba improduttiva, pagano più dei profitti e più del lavoro. Grazie per l'attenzione.